Terza ultima riga della pagina 2b della Gemara di Makot. Arriviamo alla quinta eccezione riportata nella Baraita. Abbiamo studiato in precedenza nella Mishnah stessa, la prima Mishnah della nostra Masechet Makot, che per ciò che riguarda la regola normale dei Zomimin, degli Edim che sono considerati falsi, perché altri Edim, altri testimoni hanno detto Imanu Hayitem, eravate con noi in un luogo, un tempo specifico in cui non sarebbe stato possibile quindi il vostro la vostra testimonianza non ha senso. E la Torah dice c'è una particolare punizione, la pena è molto strana, molto particolare e specifica solo a questo caso, e cioè Vasitem lo kasher zamam la sot le achiv, bisogna fare al gruppo di testimoni resi falsi ciò che intendevano far fare al loro fratello, e cioè al soggetto della testimonianza. Quindi, se il Beit Din avesse deciso che la persona, per esempio, dovrà essere messa a morte, e non è stato ancora messo in esecuzione la sentenza, allora dovranno loro essere messi a morte. Un esempio, ok? La nostra Mishnah ha detto ci sono eccezioni a questa regola dove non prendono la punizione che avrebbero fatto far fare a quella persona, ma bensì prendono le frustate, makot, malkut. E la Mishnah ha detto due eccezioni. Arrivata la Baraita, citata dalla Gemara, e ha detto ci sono oltre a queste due eccezioni della Mishnah, ci sono altre due eccezioni, come abbiamo spiegato la quarta di queste, tutte e quattro, nella lezione precedente. E poi la Braita ha detto esiste anche una quinta eccezione secondo un maestro specifico, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva sarebbe dell'opinione che c'è anche un altro caso in cui si esce fuori dallo schema normale dei Zomemin. Qual è questo caso? Mishum Rabbi Akiva Ameru Vehule. Vehule significa eccetera. Cioè la Gemara cita la Braita, a nome di Rabbi Akiva è stato detto eccetera eccetera. Cos'è stato detto a nome di Rabbi Akiva? Vi ricordate? Ricordo solo che non si applicava alla fine, non si seguiva. Ok, Rabbi Akiva ha detto Af en meshalemin al pi atzman, che nel caso si trattasse di una questione per la quale avrebbero dovuto le shalem, cioè pagare, non pagherebbero gli edim zomemin se si venisse a conoscenza del loro essere zomemin per una loro stessa ammissione di colpa. Se loro dicono noi siamo Zomemin e si tratta di un caso in cui avrebbero dovuto pagare e noi sappiamo che sono Zomemin per loro stessa ammissione, al piazman, dalla loro stessa bocca, significa dalla loro stessa ammissione, allora non devono più pagare. Cosa significa? Ok, allora guardiamo cosa dice la Gemara. La Gemara cerca di capire esattamente come noi cerchiamo di capire le parole di Rabbi Akiva. Guardiamo nella Gemara. Qual è la domanda che la Gemara si pone? Le parole che noi abbiamo detto, ma in altri termini. Mai tama de Rabbi Akiva. Qual è la motivazione per ciò che dice Rabbi Akiva? Ok? Mai ta'ama, e come in ebraico, ma hata'am, qual è il motivo? Ok? E la Gemara risponde, e ora spieghiamo anche la risposta della Gemara, prima traduciamo, Kassavar, lui è dell'opinione, che nasa hu, che si tratterebbe nella hazama, nel zomemin, il pagamento del zomemin, si tratterebbe di Kenasa in ebraico knas, in aramaico kenasa, significa una multa. Che vuol dire? Allora, abbiamo già visto, credo anche in passato, che per ciò che riguarda i pagamenti che potrebbero esistere, ci sono due categorie. La prima categoria è il risarcimento. Risarcimento significa una somma che corrisponde ad una perdita dell'altra parte, quindi che potrebbe essere a causa di un danno o a causa di un prestito non pagato, c'è da risarcire, c'è da riempire un vuoto che in qualche maniera è stato creato. E quindi il risarcimento corrisponde di nuovo a quanto mancava dall'altra parte. Questo non è knas, questo non è multa, questo si chiama nel linguaggio talmudico mammon, semplicemente denaro. Risarcimento si chiama mammon. La seconda categoria è quella che si chiama knas, significa multa, e cioè un pagamento che non corrisponde, che è una punizione, che non corrisponde a qualcosa che sta da risarcire, a qualcosa, a un vuoto che è stato creato, bensì è una multa vera e propria, come per esempio abbiamo parlato l'altra volta del caso in cui una persona ruba secondo certi criteri. C'è da pagare non solamente il risarcimento di ciò che è stato preso, ma anche una multa del 100% in più, quindi il doppio. Una sanzione. Hai rubato 100, devi ridare 100 più una sanzione di altri 100. 200. Tutto insieme 200. Allora, cos'è questo? Non è un risarcimento, è una sanzione. Ok? E questa sanzione nel linguaggio della Gemara si chiama kenas. In aramaico con la alef alla fine kenasa. Ok? Ora, la Torah, la Gemara, la tradizione ci insegna che un kenas non esiste per propria ammissione. Cioè se la persona ammette, io ho creato un danno, il danno vale tot, c'è da fare un risarcimento, va fatto il risarcimento. Risarcimento. Mammon si paga sia che si venga a conoscenza del fatto tramite Eidim, quindi testimoni, o che si venga a conoscenza del fatto tramite l'ammissione stessa della persona. Ma per ciò che riguarda il Kenas, esiste solo un modo che si può pagare che si fa pagare la sanzione. Solo se si viene a saperlo al Beit Din tramite Eidim, tramite testimoni. Ma se lo si viene a sapere per ammissione stessa di colpa del soggetto, non c'è sanzione. Se io stesso vengo e dico ho rubato, allora il Beit Din dice ok, risarcisci quello che hai rubato, ma non c'è sanzione. Invece se gli Eidim vengono e dicono questo qui ha rubato e viene accettata la testimonianza, allora non solo devi risarcire, devi anche dare la sanzione. Se ammette la colpa, allora... Se invece ammetti la colpa, nel caso di mammon, denaro devi risarcire, la perdita la devi, il vuoto lo devi riempire, ma la sanzione no. Perché? In realtà non è che c'è una logica dietro, è qualcosa che noi impariamo dal Pasuk. La Gemara spiega. Non qui. La Gemara spiega nel Bava Kamma, nel trattato di Bava Kamma, si parla di risarcimento di danni, soprattutto civili, che, visto che è scritto riguardo il Kenas, e nello specifico proprio l'esempio che abbiamo fatto, quello di dare una doppia somma per ciò che riguarda chi ruba, quindi quello che ha rubato più la sanzione, doppia, 100%, la Gemara cita che lì la Torah dice nella Parashah di Mishpatim Asher Yarshiun Elohim Yeshalem Shenaim Lireehu, colui che sarà trovato Rasha, colpevole, da parte di chi? Elohim. Chi è Elohim? Signore, il giudice. In realtà Elohim in vari contesti significa non Akadosh Baruch Hu, significa i giudici, i Dayanim. Tra l'altro anche nel Salmo del giorno che abbiamo letto oggi, martedì, c'è scritto Bekerev Elohim Mishpot, che Akadosh Baruch Hu appoggia i giudici. È un riferimento ai giudici Elohim a volte. In generale la parola Elohim non è esclusiva per Akadosh Baruch Hu. Può anche voler dire persone di posizione che hanno una posizione di potere, e in particolare in certi contesti significa proprio letteralmente giudici. In questo contesto, nella parasha di Mishpatim, varie volte c'è un riferimento Elohim ai giudici, e questa è una di quelle volte dove è scritto colui che è stato reso colpevole da Elohim, cioè dai giudici, Yeshalem Shenaim Lireehu, dovrà pagare il doppio alla persona dalla quale ha rubato. Non per propria ammissione, solo se sono gli giudici a venire a questa conclusione, tramite ovviamente una testimonianza. Quindi con questo la Torah allude all'idea che si esclude il kenas, la sanzione, da chi invece lo ammette di proprio. Ok? Sì? Il fatto che la missione in questo caso porta a un raddrizzamento del tiro, insomma, verso una persona, no? Perché ha ammesso, quindi c'è una correzione. In tutti gli altri casi che abbiamo visto fino ad oggi, che non riguardano pagamenti, eccetera, insomma, se il testimone ammette senza che arrivino gli altri a dire no, ma tu non eri ieri con noi, e di suo, come in questo caso, ammettesse la colpa, ci sarebbe qualche, in tutti i casi precedenti, qualche altra... Non è esomemin. Appunto, cade tutto il discorso in quel caso. Diventa un discorso diverso. Nel caso di Edim Zomemin, Zomemin sono... Solo se viene quell'altro a dire di no. Esatto. Quindi, scusami se... Quindi cosa significa questo? Noi stiamo parlando, adesso torniamo a Rabbi Akiva. Cosa sta dicendo Rabbi Akiva? Questo. Dobbiamo tornare a Rabbi Akiva, abbiamo fatto un discorso generale. Rabbi Akiva sta dicendo che in generale tutto il discorso di Zomemin è un discorso di Knas, non è un discorso di Mammon, non è tutto il concetto di Edim Zomemin, come adesso la Gemara anche spiegherà. Dove esiste il concetto di Zomemin? Io ho fatto una testimonianza, il Bedin ha accettato la testimonianza, ha emanato la sentenza, ma ancora non è stata ammessa in atto, quindi la perdita eventuale non c'è ancora stata, e tu devi pagare quello che avresti fatto pagare a quello che non ha pagato, che se avesse pagato la sentenza sarebbe stata già messa in atto, non c'è più il discorso di Zomemin. Allora Rabbi Akiva dice: non stai riempiendo un vuoto, è una sanzione il concetto di Zomemin. La punizione di Zomemin è una sanzione, non è un risarcimento. Se dovessimo vedere le due categorie di pagamenti, risarcimento e sanzione, Mammon e Knas, dove rientra Zomemin? Dove rientrerebbe Zomemin se volessimo metterlo in una di queste categorie? Rientrerebbe nel Knas. E visto che nel Knas esiste la regola che non paghi il Knas secondo la tua stessa ammissione, allora anche nel Zomemin non dovresti pagare secondo la tua stessa ammissione. Ora, per tornare a quello che diceva Alberto, cosa significa? Significa che parliamo di un caso che già sono stati confermati di essere Zomemin, cioè che sono venuti altri due testimoni e hanno detto in mano a item. E poi, per esempio, la Gemara ne parlerà un po' più avanti, poi, per esempio, sono scappati. I due Zomemin sono scappati. Poi, dopo un anno, vengono davanti a un altro Bedin e si vogliono chiarire la coscienza e dicono: guarda che noi siamo stati trovati Zomemin. Cioè, ammettono. Ammettono. Ah, per vostra stessa ammissione, ok, non devi pagare. Anche una cosa c'è. Ok, allora Leone, qual era la tua domanda? Alla fine, mi viene a mettere una cosa. Sì? Noi finora abbiamo parlato dei falsi testimoni. Sì. Poi ci possono stare i testimoni omertosi. Significa? Che praticamente io chiamo a testimoniare due persone perché sono imputate qualcosa. Io chiamo Tizio e Caio perché dico loro erano presenti qua. Sì, sì, sì. E loro sono obbligati a testimoniare. Ok. Possono... Allora, molto bene, qui c'è una differenza tra la legge civile e la legge della Torah. Perché tu dici giustamente oggi cosa si dice? Io chiamo dei testimoni. Io, il soggetto, cerco di trovare il testimone. Non è questo. Sì, non è Zomemin, però lui dice in generale. Okay. In generale, l'obbligo non è tuo di trovare testimoni, è l'obbligo del testimone che, se conosce una testimonianza, è obbligato per la Torah a venire a raccontarla. Io gli sto testimoniando al giudice. No, no, va bene. No, stai spiegando, non c'è l'obbligo. No, sto dicendo che c'è, è ancora più forte di quello che dice lui. No, c'è l'obbligo per il testimone. C'è l'obbligo per il testimone. Non per quello che lo dice. Sì, ma lui dice: per mia comodità, so che Alberto e Donato sapevano. Ti chiamo io. Puoi chiamarli. Puoi chiamarli, non che non puoi chiamarli, ma io sto dicendo ancora di più. La Torah dice a Donato e Alberto: voi, se sapete qualcosa che può essere una testimonianza, senza aspettare, siete obbligati a venire a testimoniare. Non si può non testimoniare qualcosa. Quello, cioè, diventa un somemin al contrario. Bravo. Perché somemin? No, vabbè, dico un falso, l'omertoso, praticamente l'omertà. L'omertà non è ammissibile per la Torah, ma non c'entra con somemin. No, non è falso o non falso. Cioè, se lui... Esiste una mitzvah della Torah, se uno conosce una edut, deve andare al Beit Din e darla. Ma è mitzvah o viene punito sì, se si viene a sapere? Sì, è una mitzvah. Cosa e significa? Se viene punito se poi un domani si viene a sapere che lui poteva testimoniare o non ha testimoniato? Bisogna vedere che tipo di punizione, perché normalmente perché per una... È quello che diceva lui alla fine, è il contrario. Cioè? Allora, chi è andato a testimoniare ha fatto una falsa testimonianza, però è andato. Okay. E viene punito, vediamo con queste logiche, cioè stai spiegando. Va bene. E invece chi proprio non è andato, e invece sì, dopo qualcuno viene a sapere che tu potevi andare invece perché dovevi fare quella mitzvah, vieni punito? No? Probabilmente sei punito solo dal cielo. Ecco. Perché? Perché è una nessuno mitzvah sa negativa che non ha azione. Abbiamo giusto studiato mitzvah, okay, lav she'en bo maaseh. Il caso di Edim Zomemino è un'eccezione anche per questo, dove non c'è un atto e comunque ci sono le frustate nei casi di eccezioni, quello che abbiamo studiato sì. di Ula, abbiamo spiegato prima questo discorso. Esiste un concetto che per una mitzvah negativa, certo che se non la metti in atto sei punito, ma non sempre dal Beit Din, potresti essere punito dal cielo direttamente, perché il Beit Din può punire solo secondo quello che vede. E anche quando vede... Abbiamo detto che la punizione fisica c'è solo per, quando si tratta di una mitzvah negativa, solo per una cosa che di azione, non di inazione o di pensiero o di sola parola, normalmente, ok? Caso di Edim Zomemin è un caso d'eccezione a questa regola. Però in generale, se tu conosci una edut, sei tenuto a raccontarla, ok? Ora torniamo al nostro caso. Di nuovo, Rabbi Akiva ha detto... E i dim zomemin che ammettono la propria colpa di propria, appunto, ammissione, sono esenti dal pagamento. La Gemara ha spiegato per quale motivo Rabbi Akiva dice questo, perché Rabbi Akiva ritiene che il concetto di Edim Zomemin rientra sotto la categoria di Knas, e nel Knas abbiamo spiegato che non c'è il pagamento se di propria ammissione. Ora la Gemara cita uno dei maestri appunto della Gemara, Rabbà, che dice, sì, è vero, ed ecco la prova. Qual è la prova? Una prova logica. Amar Rabbà, effettivamente, disse Rabbà, te da significa sappi, la da a sapere, no? Te da, sappi, e quando la Gemara dice sappi, con questo termine specifico qua, te da, la Gemara, la parola codice, per capire cosa c'è dietro, sta dicendo, ecco la prova. Lo saprai in base a quello che ti dico, perché questo sarà una prova. Ok? Te da, la prova è, quindi io traduco te da, non sappi, che è la traduzione letterale, ma te da, la prova è la seguente. Qual è la prova? Sheharei, lo assumase. Poi, come facciamo a sapere che gli Edim Zomemin rientrano sotto la categoria di Knas? Poiché, Sheharei, poiché lo assumase non hanno fatto fare nessuna azione. Di nuovo, cosa significa non hanno fatto fare nessuna azione? Edim Zomemin esiste solo dopo che la sentenza è emanata, ma prima che venga messa in atto. Quindi la punizione a quell'altro di cui testimoniavano non è stato messo in atto la punizione. Nonostante non avessero fatto un atto, lo assumase, neheragim un meshalmin. Nel caso fosse una pena capitale, viene applicata a loro la pena capitale, neheragim, vengono uccisi. O Meshalmim, nel caso fosse un risarcimento monetario, pagano loro il risarcimento monetario, senza aver fatto fare nulla a quell'altro, al soggetto. Quindi non c'è una perdita vera e propria. Di conseguenza è chiaro che è una sanzione e non un risarcimento. È Knas, non è Mammon. Semplice. Ma per definizione. Questo. Per definizione. Allora Rabbà dice, non c'è niente di nuovo qua, è normale, ecco la prova. Cos'è Edim Zomemin? Edim Zomemin funziona in questa maniera. Ok, allora che risarcimento è? È ovvio che rientra nella categoria di Knas. Esatto. Ora la Gemara aggiunge un'altra riga. Amar Rav Nachman. Disse Rav Nachman. Teda, ti porto io la prova che Edim Zomemin è un Knas. Rientra sotto categoria di Knas. Qual è la prova? Sheharei, poiché noi vediamo Mammon, il denaro, Beyad Bealim, il denaro è ancora in mano al proprietario, cioè nessuno ha sborsato nulla, un Meshalmim, e loro comunque devono pagare, se avessero fatto pagare a quello, devono pagare loro, anche prima che quello paga. Ma cosa dice di diverso Rav Nachman di Rabbah? Dice la stessa cosa. E la Gemara lo fa notare subito, se giriamo la pagina. La Gemara si chiede, ok, è chiara la prova di Rabbah, è chiara la prova di Rav Nachman, ma cosa aggiunge Rav Nachman che Rabbah non ha detto già? Mai nihu, qual è il senso di questa frase dello asumase? Questo punto che è stato esposto da Rav Nachman, non hanno fatto fare niente. Hainu di Rabbah, è la stessa cosa che ha detto Rabbah. In realtà era Rabbah che ha detto lo assumase. No, allora questo punto che non hanno fatto fare è la stessa cosa che ha detto Rabbah. Hanno usato parole diverse Rabbah e Rav Nachman, ma hanno detto la stessa cosa. Allora la Gemara dice, Eima, dovresti dire, cioè nel citare questi due maestri, dovresti citare non come noi abbiamo detto, Rabbah disse ecco la prova, poi Rav Nachman disse ecco la prova, no, hanno detto la stessa cosa. Bensì, Eima, dovresti dire, Vechen amar Rav Nachman, e così anche disse Rav Nachman. Cioè, cosa significa questo? Rabbah e Rav Nachman non erano lì nella stessa stanza, e uno ha detto ecco la prova e l'altro ha detto ecco la prova, hanno detto la stessa cosa. Stiamo citando da diverse fonti, però visto che citiamo uno dopo l'altro, allora diciamo Vechen, anche Rav Nachman disse così. Ma in un altro contesto. Ma in un altro contesto. Quindi a quale conclusione siamo arrivati? Siamo arrivati alla conclusione che secondo Rabbi Akiva, attenzione, secondo Rabbi Akiva, non secondo tutto il mondo, secondo Rabbi Akiva, Edim Zomimin rientrerebbe sotto la definizione di Knas, di sanzione, e quindi En Meshalmin al Piazman. Se c'è una Hazama, come abbiamo spiegato, quale potrebbe essere il caso e sarà approfondito nel prossimo brano della Gemara, per propria ammissione di colpa non pagano se avrebbero fatto pagare. E questo non riempie nessun vuoto, non è un risarcimento, quindi è considerato Knas e di conseguenza si applica la regola del Knas dove non si paga per propria ammissione. Come detto prima, anche dopo trascorso un anno, anche trascorso... Sì. Ora, però, perché hanno detto a nome di Rabbi Akiva? Perché non tutti i Tanaim sono d'accordo, allora, che vedremo più avanti, che secondo Rabbi Yehuda... E Dim Zomimin non rientra sotto la categoria di Knas, di risarcimento, e questo lo vedremo non subito. Prima la Gemara parlerà di altre cose, ma nella pagina 4 della Gemara si parlerà dell'altra opinione, e cioè che i Dim Zomimin non rientrano nella categoria di Knas, e quindi qui abbiamo citato la braita di Rabbi Akiva solamente.